troppo bella, per strada ti seguo ma sei troppo bella, non vedi nemmeno che ti sto vicino, allora tremando con ammirazione ti ripeto così, ehi Stella! Ti scendi forse dalle stelle tue compagne, da Venere o da Marte, più forti dei superlativi, i super, gli extra, ultra crescitivi, non hanno la forza che richiederebbe un aggettivo per te. Ehi, Stella! Tu scendi forse dalle stelle tue compagne, da Venere o da Marte. Più forti dei superlativi, i super, gli extra, ultra crescitivi, non hanno la forza che ricorderebbe un aggettivo per te. Ehi, Stella! Ti scendi forse dalle stelle tue compagne, da Venere o da Marte. Giro con te. Giro con te.